Tavolo perduto di Alba Saiu. Come due gabbiani, all'inizio il nostro volo è unico, come il nostro amore. Cavalca onde insaziabili di speranza. Si muove attraverso un cielo colorato di un profondo azzurro. Siamo poggiati sullo stesso scoglio, con la testa china una sull'altro. E guardiamo quel mare immenso, pensando che non potrà mai separarci. Ma non è stato così. Sono arrivate le piogge, si sono trasformate in tempesta e la bufera ha portato via tutti i nostri sentimenti, le buone ragioni che ci tenevano ancora legati. Ed ora ti guardo. Tu sei su uno scoglio e io su un altro. E questa immensa distesa d'acqua, colma d'amore ormai perduto, ci terrà lontano per il resto della nostra vita.